Capitolo 154. Largo ritorna in Grecia. Giunti a Corcira, che era allora chiamata Drepane, i colchi trovarono Largo tirata in secco sulla spiaggia di fronte all'isoletta di Macride. L'equipaggio stava lietamente celebrando il successo della spedizione. I colchi si recarono allora da re Alcino e dalla regina Areta e chiesero in nome di Eete che fossero loro consegnati Medea e il vello. Areta, cui Medea si era rivolta per averne protezione, tenne desto Alcino tutta notte, lagnandosi per la malvagità con cui certi padri trattavano le loro figlie. Citò a esempio la crudeltà di Niceto nei riguardi di Antiope e di Acrisio nei riguardi di Danae. «Ancor oggi», aggiunse, «la povera principessa Metopa languisce in un carcere epirota per ordine del suo efferato padre re Echeto. Egli l'ha accecata con chiodi di bronzo e la costringe a tritare chicchi di ferro in un pesante mortaio. Quando saranno divenuti farina, dice alla poveretta, ti riderò la vista. Eete è capace di trattare in modo altrettanto barbaro questa dolce Medea, se tu gliene dai l'occasione». Areta indusse finalmente Alcino a confidarle quale sentenza avrebbe emanato l'indomani, e cioè: se Medea è ancora vergine, dovrà ritornare in Colchide, se no potrà rimanere con Giasone. Lasciando il marito immerso in un sonno profondo, Areta mandò un messaggero a comunicare la notizia a Giasone. E Giasone, senza por tempo in mezzo, sposò Medea nella grotta di Macride, figlia di Aristeo e nutrice di Dioniso. Gli argonauti celebrarono le nozze con un sontuoso banchetto e stesero il vello d'oro sul giaciglio degli sposi. Il mattino seguente Alcino proclamò il suo verdetto. Giasone, dal canto suo, dichiarò che Medea era sua moglie e i colchi non poterono eseguire gli ordini di Eete, né per timore della sua collera osarono ritornare in patria. Alcuni dunque si stabilirono a Corcira e altri occuparono quelle isole illiriche non lontano dall'isola di Circe, che sono ora chiamate Apsirtidi, e in seguito fondarono la città di Pola in Istria. Quando un paio d'anni dopo Eete ebbe notizia dell'accaduto, per poco non morì di rabbia e mandò un messaggero in Grecia per chiedere che gli venisse consegnata Medea con ampie scuse. Ma gli fu risposto che egli non si era mai scusato per il ratto di Io compiuto dai suoi uomini, benché in verità Io fosse fuggita, inseguita da un tafano. E nessun compenso gli era dunque dovuto per la volontaria partenza di Medea dalla Colchide. Bastava ormai che Giasone doppiasse il capo Malea e ritornasse con il vello a Iolco. Egli oltrepassò senza pericolo le isole delle Sirene, dove i seducenti canti di quelle donne uccelli furono soffocati dai suoni ancor più seducenti della lira di Orfeo. Il suo bute si gettò in mare per raggiungere a nuoto la riva, ma Afrodite lo salvò e, guidatolo sul monte Erice, oltre il Lilibeo, fece di lui il suo amante. Alcuni dicono che le sirene, che avevano già perduto le ali dopo una gara di canto con le muse, gara in cui furono battute, si uccisero perché la loro magica musica si rivelò inferiore a quella di Orfeo. Tuttavia erano ancora nell'isola quando Odisseo vi giunse una generazione dopo. Favoriti dal vento e dal bel tempo, gli argonauti veleggiarono lungo le coste orientali della Sicilia, dove videro i bianchi greggi di Elio pascolare presso la riva, ma resistettero alla tentazione di rubare qualche capo. All'improvviso si abbatté su di loro il terribile vento di nord-est, che in 9 giorni li spinse verso le più remote spiagge della Libia, e laggiù un'enorme ondata sollevò Largo oltre le insidiose rocce che si sgranano lungo la costa, e poi subito si ritrasse, e la nave rimase all'asciutto a 1 miglio circa nell'entroterra. Un deserto senza vita si allungava a perdita d'occhio, e gli argonauti già si preparavano a morire allorché la triplice dea Libia, avvolta in pelli di capra, apparve a Giasone in sogno e lo confortò. A che Giasone riprese animo e, posta Largo su dei rulli, indusse gli argonauti a spingerla a forza di spalle fino al lago salato Tritonio, che giace molte miglia più in là, e quella dura fatica li impegnò per 12 giorni. Tutti sarebbero morti di sete se non avessero trovato la sorgente che Eracle, diretto al giardino delle Esperidi, aveva fatto sgorgare dal suolo poco tempo prima. Canto fu allora ucciso da Cafauro, un pastore garamanzio, cui egli cercò di rubare delle pecore, ma i suoi compagni lo vendicarono, e i due corpi erano appena stati sepolti allorché Mopso posò il piede su un serpente libico che lo morsicò al tallone. Una fitta nebbia scese sui suoi occhi, gli caddero i capelli e morì tra spasimi atroci. Gli argonauti, dopo avergli tributato onori funebri, siccome si conviene a eroe, di nuovo si abbandonarono alla disperazione, poiché non riuscivano a trovare una via che sboccasse al lago. Giasone, tuttavia, prima di imbarcarsi in questo viaggio, aveva consultato la Pizia di Delfi, che gli aveva donato due massicci tripodi di bronzo. Orfeo ora gli suggerì di offrirne uno alle divinità locali per propiziarsene. Giasone seguì il consiglio di Orfeo e subito apparve il dio Tritone e si portò via il tripode senza nemmeno una parola di ringraziamento, ma Eufemo gli si parò dinanzi e chiese cortesemente: «Vi prego, mio signore, volete indicarci la via che porta al Mediterraneo?» Per tutta risposta Tritone si limitò a indicare il fiume Tacape, ma poi, come se ci avesse ripensato, donò a Eufemo una zolla di terra che da quel giorno in poi assicurò a lui e ai suoi discendenti la sovranità sulla Libia. Eufemo ringraziò per il dono con un sacrificio di pecore e Tritone consentì a trascinare largo finché la nave poté di nuovo affondare la prua nelle acque del Mediterraneo. E così facendo predisse che, quando i discendenti di un certo argonauta si fossero impossessati del tripode portandolo fuori del tempio, 100 città greche sarebbero sorte lungo le rive del lago Tritonio. I trogloditi libici, udite per caso quelle parole, subito nascosero il tripode nella sabbia, così la profezia non si è ancora avverata. Diretti verso nord, gli argonauti raggiunsero Creta, dove non riuscirono a sbarcare per colpa di Talo, la sentinella di bronzo, opera di Efesto, che bersagliò largo con delle pietre, com'era sua abitudine. Medea blandì il mostro con voce soave e gli promise l'immortalità se beveva una certa pozione. Si trattava in verità di un soporifero, e mentre il mostro dormiva, Medea estrasse il chiodo di bronzo che turava l'unica vena di Talo, una vena che gli correva dalla nuca alle caviglie. Il divino icore, il liquido incolore che fungeva da sangue, ne uscì gorgogliando e il mostro morì. Altri tuttavia dicono che Talo, stregato dagli occhi di Medea, avanzò barcollando, si ferì il tallone contro una roccia e morì dissanguato. Altri ancora che Peante lo uccise scoccandogli una freccia nel tallone. La sera seguente Largo fu travolta da una tempesta che giungeva da sud, ma Giasone invocò Apollo, che illuminò il cielo con un lampo ed ecco apparire a tribordo l'isola di Anafe, una delle Sporadi, dove Anceo riuscì a far approdare la nave. In segno di gratitudine Giasone innalzò un altare ad Apollo e le 12 ancelle feacee di Medea, a lei donate dalla regina Areta, risero gaiamente quando, non avendo vittime sotto mano, Giasone e i suoi compagni versarono libagioni d'acqua sui tizzoni ardenti dell'altare sacrificale. Gli argonauti le rimproverarono scherzosamente e poi iniziarono con loro una battaglia amorosa. Questa usanza è ancor viva oggi e si ripete durante la festa di autunno ad Anafe. Giunti a Egina, gli argonauti sostennero una gara per stabilire chi, attinto un secchio d'acqua al pozzo sulla terraferma, lo portasse per primo sulla nave. Da Egina a Iolco il viaggio era breve, dozzine di navi percorrevano quella rotta ogni anno e Largo giunse in porto col favore del vento. Alcuni cantori danno una diversa versione del susseguirsi degli eventi. Dicono che gli argonauti ripopolarono Lemno durante il viaggio di ritorno e non quando stavano veleggiando verso la Colchide. Altri che si giunsero in Libia prima di iniziare il viaggio per Eea, e cioè quando Giasone, diretto a Delfi per consultare l'oracolo, fu spinto fuori rotta da un vento impetuoso. Altri ancora sostengono che gli argonauti veleggiarono lungo le coste occidentali dell'Italia e, giunti all'isola d'Elba, chiamarono Argo dal nome della loro nave il porto dove sbarcarono, e che le gocce di sudore che si scrollarono di dosso divennero sassolini variegati sulla spiaggia. Inoltre fondarono il tempio di Era argiva in Lucania e, come Odisseo, navigarono tra Scilla e Cariddi. E Teti, con le Nereidi, li guidò oltre le infuocate simplegadi o rocce vaganti che sono fermamente ancorate al fondo marino. Altri infine sostengono che Giasone e i suoi compagni esplorarono la zona attorno a Eea in Colchide, avanzando fino alla Media, che uno di loro, Armeno, un tessaro del lago Bebe, si stabilì in Armenia e diede il suo nome a tutta la regione. E per giustificare questa teoria, aggiungono che i monumenti eroici in onore di Giasone, eretti da Armeno alle porte del Caspio, sono a tutt'oggi oggetto di riverenza da parte dei barbari, e che gli armeni indossano ancora vesti tessaliche. Il mito di Metopa, che non è narrato per intero né da Omero né da Apollonio Rodio, ricorda i miti di Arne e quelli di Antiope. Questa leggenda a quanto pare fu tratta da una scena raffigurante la dea del fato seduta su una tomba. Il suo pestello da farina era il perno attorno al quale, secondo Varrone, girava il sistema celeste e che appare anche nella scandinava Edda, messo in azione dalle gigantesse Fenia e Menia, e nel libro dei Giudici, messo in azione dall'eroe solare Tirio Sansone. Demetra, dea dei mulini di grano, era una divinità dell'oltretomba. Ciò che narra Erodoto a proposito di un'ambasciata spedita da Eete in Grecia sembra poco plausibile, a meno che, secondo l'autore, la principessa Io, anziché fuggire nella Colchide in un accesso di pazzia travestita da vacca per essere in seguito deificata dagli egiziani come Iside, fosse stata rapita dai colchi che Erodoto descrive come i superstiti dell'esercito del faraone Sesostri, invasore dell'Asia, e venduta poi schiava in Egitto. Le tre sirene, due soltanto secondo Omero, erano le canore figlie della terra che attiravano i marinai nei prati della loro isola, dove le ossa delle vittime precedenti giacevano ammucchiate. Venivano descritte come donne uccelli e hanno molti lati in comune con gli uccelli di Rhiannon del mito celtico, che piangevano la morte di Bran e di altri eroi. Rhiannon era una Demetra dalla testa di cavalla. L'isola delle sirene va interpretata come l'isola funebre che accoglie le ombre dei re defunti come Avalon. Le sirene erano sia le sacerdotesse che piangevano su di loro, sia gli uccelli che popolavano l'isola stessa, al servizio della dea della morte. Come tali, esse appartenevano al culto pre-olimpico, ed ecco perché si dice che fossero battute in una gara con le figlie di Zeus, le muse. Si crede che abitassero nelle isole Sirenusi, al largo di Pestum o a Capri, o presso il capo Peloro in Sicilia. Una coppia di sirene veniva ancora scolpita sulle tombe ai tempi di Euripide. Di solito si fa derivare il loro nome da Seira Zein, legare con una corda, ma è più probabile che derivi dall'altro Seira Zein, che significa prosciugare, perché le sirene avrebbero rappresentato in forma gemellare la dea della mezza estate, quando i pascoli in Grecia si disseccano. Quindi come antevorta e postvorta, colei che guarda profeticamente verso il regno del nuovo re e colei che piange la morte del vecchio re. Il tipo di sirena donna pesce appartiene a un'epoca post-classica. La mandria di Elio si componeva di 350 capi ed era un dono di sua madre, la dea Luna. Alcuni coloni provenienti da Corinto e da Rodi, dove si venerava il suo toro celeste, si erano stabiliti in Sicilia. Odisseo conobbe Elio come Iperione. Il lago Tritonio, un enorme lago interno che coprì le terre dei neolitici abitanti dell'Atlantide, si era prosciugato a poco e benché avesse ancora un'estensione rispettabile nell'epoca classica, il geografo Scilace lo descrisse vasto circa 900 miglia quadrate, è ora ridotto a una laguna salata. Neith, la triplice dea avvolta nelle pelli, anticipò Atena con la sua egida. Mopso, la cui morte per il morso di un serpente al tallone era tema assai comune, appare anche nel mito di Dercito, la dittinna filistea. Un altro Mopso, nipote di Tiresia, sopravvisse alla guerra di Troia. Cafauro è un nome piuttosto singolare per un libico. Cafaura è il termine arabico per la canfora che non cresce in Libia, ma i mitografi avevano scarse cognizioni geografiche. Talo, l'uomo di bronzo, è un personaggio composito, in parte toro celeste, in parte re sacro col tallone vulnerabile e in parte semplice dimostrazione del metodo di fondere statue di bronzo, detto della cera perduta. Il sacrificio d'acqua offerto ad Anafe ricorda l'offerta analoga che gli ebrei facevano nel giorno dei salici, all'apice della loro festa dei tabernacoli, quando portavano in solenne processione l'acqua attinta alla piscina di Siloe. La corsa coi secchi d'acqua di Egina faceva probabilmente parte di una cerimonia dello stesso tipo. I tabernacoli iniziarono come una festa autunnale della fertilità e, secondo il Talmud, i farisei ebbero non poche difficoltà a frenare la tradizionale spensieratezza delle donne. Sassolini variegati, ossia cristalli di ferro, si trovano ancora sulle spiagge dell'Elba. Teti guidò Largo attraverso le Simplegadi all'ingresso dello stretto di Messina, mentre Atena la guidò attraverso le Simplegadi all'ingresso del Bosforo. Odisseo evitò l'ostacolo passando tra Scilla e Cariddi. Le Simplegadi occidentali sono le isole vulcaniche di Lipari. L'Armenia, che significa Arminni, l'alta terra di Minni, non ha alcun rapporto storico con l'armeno del lago Bebe. Ma Minni è evidentemente il Minia di cui parla Giuseppe Flavio quando descrive il diluvio di Noè, e il nome del Minia Tessalico, antenato dei Minii, fornì un legame plausibile tra l'Armenia e la Tessaglia.